tempo per pensare, ma solo per ridere, scherzare, vivere e ballare. Dentro di noi ci sarà l'amore, non quello delle televisioni. Sarà magia che non si può spiegare, come ascoltare il rumore del mare che ci porta lontano a navigare, come essere tra le nuvole del cielo e vedere la terra senza un velo. Ti cullerò come il vento con le foglie, ma non sarò mai tempesta, non avrò paura di perderti, perché tu sei già dentro di me. O prendimi, portami via, dai, non ci stare a pensare, non devi avere paura di quello che non si può spiegare. Come ascoltare il rumore del mare che ti porta lontano a navigare, come essere tra le nuvole del cielo e vedere la terra senza un velo. Le nuvole del cielo e vedere la